Uno, due, tre. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui alle 7:21 minuti. Allora, siamo pronti alla lettura dei quotidiani. Prima vi ricordo che avremo l'avvocato di Francesco Schettino, nostro ospite alle 8:15, quello che segue la causa di lavoro. Sapete che si è opposto al licenziamento della Costa, il comandante del Giglio. Poi parleremo di, l'abbiamo titolata tassare la prostituzione, perché il tema è quello. C'è una campagna portata avanti anche sui giornali con delle pubblicità. La campagna è molto così esplicita: l'Italia va a puttane? Fateci pagare le tasse. Ne parleremo alle 8:30. Ora andiamo a leggere appunto i quotidiani in edicola. Questo mercoledì 12 dicembre, come detto, è il 12-12-12. Se siete superstiziosi, Ale. Allora, i titoli: Il Sole 24 Ore, la ripresa arriverà solo nel 2014. Questo è il titolo del Centro Studi Confindustria. Le previsioni. Corriere della Sera: Berlusconi, Merkel, nuovo caso. Repubblica: l'Europa boccia Berlusconi. La Stampa: la Germania contro Berlusconi. Avvenire ed è subito, duello Berlusconi-Monti. Il giornale: l'occupazione tedesca, Berlino tifa Monti. Il messaggero: Merkel, stop a Berlusconi. Il secolo XIX, Merkel, io sto con Monti. Come vedete, il tema è praticamente unico. L'unità, il me ne frego del Cavaliere. Libero, dai Silvio, rottamali tutti. Il Fatto Quotidiano: Rai, i partiti uniti nella lotta a rinviare il Festival di Sanremo. Il Manifesto: l'Italia fa tremare l'Unione Europea, la Germania vota Monti. Queste alcune delle aperture dei quotidiani. Voglio partire subito dalla classica notizia da Mani sul volante. Cari ascoltatori che siete in macchina, se non siete invece, se sono state per prendere uno dei treni dei pendolari disastrati, nel senso che da 2 giorni è un disastro, anche ieri, delle Ferrovie Nord. Mani sul volante, perché la notizia proviene dalla regione Piemonte, dove, dopo aver studiato tutti i conti dei rimborsi, si è scoperto che 4 consiglieri sono indagati per peculato. Avrebbero utilizzato soldi della regione destinati ai gruppi. Tra l'altro, sono i monogruppi, questi gruppi formati da un solo consigliere, per spese pazze. E tanto che, titola Libero, spuntano Fiorito pure in Piemonte. Ma leggo dalla Stampa, pagina 12: Tosa Erba e Solarium, le spese pazze alla regione Piemonte. Claudio Laugeri racconta: 4 consiglieri regionali sono sotto inchiesta per peculato. Sono Michele Giovine, Andrea Stara, Maurizio Lupi e Eleonora Artesio. Alcune delle spese sono queste: per esempio, per Giovine, vacanze, giocattoli, vestiti per bambini, formaggio e pane al supermercato, contravvenzioni per 3.000 euro, benzina 57.000 euro, che è già compresa in realtà nei rimborsi chilometrici incassati a parte. In tutto 121.000 euro dal giugno 2010 al marzo di quest'anno contestati. Spese allegre anche per Lupi, che si è fatto rimborsare 74.000 euro per il carrello del supermercato, per acquistare torba e tosa erba, ma anche videogiochi, medicinali, profumi, abbigliamento. C'è da dire che è contestato invece meno a Eleonora Artesio, 12.000 euro, che, scrive la Stampa, non si sarebbe intascata neanche un centesimo, ma avrebbe usato i soldi per pagare collaboratori e rimborsare le loro spese. Comunque fuori legge. Ma tutti i giornali titolano su questo, pagina 14 di Repubblica: Piemonte, lo scandalo dei rimborsi, videogame e Night. Ah, spuntano anche i Night. Eccoli lì. I Night a spese della regione, nel mirino 4 consiglieri. Chissà quale utilità deve essersi figurato Andrea Stara, consigliere di centrosinistra del Piemonte, mentre comprava con la carta di credito della regione un tosa erba e una sega circolare. Si chiedono Federica Cravero e Ottavia Giustetti, le autrici dell'articolo. Oppure Michele Giovine, dei pensionati per Cota, quando attendeva in coda la cassa del bagno turco, asciugamano annodato in vita, in mano una carta intestata al gruppo regionale di cui è unico consigliere, monogruppo. O Maurizio Lupi dei Verdi Verdi, mentre vittima di una irrefrenabile passione per i videogiochi si faceva regalare dai contribuenti 2.050 euro di prodotti informatici. Poi ci sono spese per 7.000 euro per i tabacchi, che scrive il libro. E quanto fumavano? Ma che cosa si fumavano? 7.600 euro, pare. 7.000 rotti per i tabacchi, Michele Giovine. E beh, sarebbe bello avere alcuni di questi consiglieri domani magari da cercare, invitarli in onda a spiegarci se hanno una giustificazione per queste spese considerate pazze. Sta di fatto che, insomma, sono accusati di peculato. Regione Piemonte. Mentre c'è un effetto forse positivo, forse no, non lo so, magari sono troppo irriverente, delle elezioni a febbraio, beh, il Festival di Sanremo forse viene spostato, non che venga annullato. E qui ci sono le varie teorie, eh? C'è chi la butta come l'unità sull'effetto Littizzetto, visto che sarà a Sanremo con Fabio Fazio, dopo quello che ha detto domenica Berlusconi ha rotto il ci siamo capiti, ecco allora che sotto elezioni bisogna spostare Sanremo, perché dopo la battuta sul Cavaliere i vertici della RAI studiano soluzioni perché temono la satira festivaliera. C'è chi invece la mette semplicemente su una questione di Election Day che minaccia Sanremo, come Leandro Palestini su Repubblica, pagina 9. Per la prima volta nella sua storia Sanremo rischia di slittare con la coppia Fazio-Littizzetto che fa paura prima del voto. Il direttore generale della RAI, Gubitosi, prende tempo, cerchiamo prima di capire quando saranno fissate le elezioni. Chiaramente diventa difficile competere con noi stessi. In pratica, in caso di Election Day il 17-18 febbraio o il 24-25, il Festival di Sanremo, che è previsto dal 12 al 16 dello stesso mese, dunque qualche giorno prima, slitterebbe per evitare la sovrapposizione con i programmi di approfondimento Ballarò, Porta a Porta. Insomma, ci siamo capiti, ecco, questi programmi qui. Quindi è timore della satira della Littizzetto o banalmente in quelle serate una settimana prima della competizione elettorale è bene dedicarle ai programmi di approfondimento sulla politica, cercare di capire. Comunque la vediate, Sanremo rischia di slittare. Politica batte spettacolo, la RAI rinvia Sanremo, la 63esima edizione del Festival cade in campagna elettorale, i partiti impongono lo slittamento a marzo. Così la vede lì il Fatto Quotidiano con Malcolm Pagani e Carlo Tecce che firmano l'articolo a pagina 3. Sanremo, più di tutto poté la politica. Anche Libero però la vede come una questione di satira. Hanno rotto, e c'è la foto di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, Sanremo slitta. Viale Mazzini preferisce chi insulta a conduttori super partes, ora si ritrova costretta a rinviare il Festival della Canzone per evitare che si trasformi in uno spot elettorale per la sinistra. Così la vede Libero. Ripartiamo dopo la pubblicità e il meteo dalle vicende Monti, Berlusconi, la Merkel, lo spread. E allora eccoci qua, sono le 7:35 minuti e duello vero e proprio. Ieri è stato un duello televisivo in qualche modo, anche se a distanza, perché intervistati a distanza uno sulla Rai e uno su Canale 5, il premier Mario Monti e l'ex premier Silvio Berlusconi si sono incrociati sul tema dello spread. Prima ha detto Monti: no, lo spread è importante, no ai populismi. Poi ha raccontato anche questo aneddoto del nipotino che all'asilo viene chiamato spread dai compagni. E Berlusconi invece su Canale 5 poco dopo ha detto: ma che ci importa dello spread, ma chi se ne frega dello spread, un anno fa nessuno sapeva di questo spread, è il grande imbroglio. Monti: gli italiani non sono sprovveduti, no ai populismi. Così sul Sole 24 Ore, pagina 11, il racconta la giornata di cronaca Lina Palmerini. È stato un duello televisivo, per l'appunto, scrive, a distanza, quello di Monti con Berlusconi, con un solo scarto di qualche minuto minuto, due reti televisive diverse, ma con gli stessi argomenti visti da due punti di vista opposti. E Monti ha detto appunto anche questa frase: la politica di crescita andava fatta prima che lo spread salisse. Questa è stata l'accusa più forte di Monti. Quella ricetta sarebbe stato opportuno trovarla qualche anno prima, quando per di più non c'era da curarsi della grande difficoltà finanziaria. Sarei felice di apprendere da qualcuno come sarebbe stato possibile salvare l'Italia dal destino greco e farla crescere a ritmo veloce. Come dire, Monti, la politica non ci ha pensato prima e quindi abbiamo dovuto prendere le nostre ricette. In realtà, in un retroscena, in retroscena che fioccano, ritornano, spuntano come funghi di dicembre, sui giornali, in un retroscena della politica di Alberto D'Argenio a pagina 3 di Repubblica, pare che Mario Monti sia seriamente preoccupato da questa deriva che accusa di essere antipopulista e molto populista di Silvio Berlusconi. L'ex premier la deve smettere perché così butta i sacrifici di quest'anno. Questa è quello che è emerso dall'ultimo Consiglio dei Ministri, il primo dopo l'annuncio di dimissioni di Mario Monti, quello nel quale, scrive Repubblica, l'inflessibile Cancellieri ha dovuto lasciare a metà dell'intervento del Premier, altrimenti mi commuovo. E, Mario Monti che è dato per preoccupato, ha detto: le pressioni a Oslo da parte degli altri capi di Stato europei sono state incredibili, ma non ha ancora sciolto il nodo su cosa farò da grande. In queste ore ha avuto contatti ad ampio raggio Mario Monti e alla domanda: presidente, tanto la rivedremo qui anche dopo il voto? Monti non ha dato alcuna indicazione, è rimasto una sfinge durante la riunione di Palazzo Chigi quando alcuni ministri hanno provato a provocarlo con questa frase. Sta di fatto che Mario Monti si direbbe molto preoccupato, scrive Repubblica, per la deriva populista appunto di Silvio Berlusconi. Anche il Corriere della Sera ha a pagina 2-3 il suo retroscena su quello che è stato il Consiglio dei Ministri di ieri. In questo caso, nell'articolo di Marco Galluzzo, viene dato un Mario Monti offeso. Questo è l'aggettivo che ha utilizzato per il Premier: offeso, noi mai stati partigiani. L'accusa che è pesata di più, avrebbe detto Monti, è quella di partigianeria, di aver legiferato seguendo le indicazioni e subendo le indicazioni della sinistra o della CGIL. Mi sono sentito offeso, avrebbe detto Monti. Ho dovuto leggere un discorso che ci faceva passare per fessi, il discorso è quello di Alfano, per gente condizionata da un partito più degli altri, cosa che invece non è mai accaduta. Non siamo mai stati condizionati nelle nostre scelte, abbiamo sempre solo cercato di ottenere il migliore equilibrio possibile, ma rispettando i nostri principi. Così Marco Galluzzo dunque racconta di un Mario Monti che comunque, e questi sono i pronostici, che farà, cosa non farà, in qualunque veste farò politica. Questa è anche la frase che ha detto in qualche modo a Uno Mattina, anche se glissa per il momento sul suo futuro. Dall'altra parte Berlusconi ha la strategia d'attacco, è la strategia abbastanza nota, abbastanza conosciuta. Secondo Amedeo La Mattina sulla Stampa è proprio una strategia voluta, soprattutto l'eterna strategia d'attacco di Silvio, candidato premier. Il piano di Berlusconi è proprio questo: trovare un nemico per poter fare la vittima. Avrebbe detto ieri, anche dopo l'intervista, più mi contestano e più cresco nei sondaggi in Italia. In effetti io credo che non abbiano tutti i torti sia Ernesto Galli della Loggia nel suo editoriale oggi in prima pagina del Corriere della Sera, sia Filippo Facci su Libero, che scrivono più o meno lo stesso concetto. Ernesto Galli della Loggia nel suo editoriale dal titolo Il riflesso condizionato scrive proprio così: l'aiuto che consiste nel fare di Berlusconi stesso, della sua persona, il centro ossessivo della campagna elettorale, nel prendere ogni pretesto per metterlo sotto accusa, nel trasformare le elezioni in un giudizio di Dio sul cavaliere, magari con l'involontario fiancheggiamento di qualche procura della Repubblica. Già in passato questo si è rivelato il modo migliore per galvanizzare l'uomo e quell'Italia che ne apprezza la ruvida personalità, fatta per lo più di gente non sofisticata, che di rubi e delle oggettive e delle oggettine se ne infischia, pensando che l'IMU è ben più importante. Quell'Italia digiuna di Montesquieu, che per esperienza secolare è portata ad avere della giustizia un'idea alquanto diversa da quella del professor Zagrebelsky, e alla quale non sembra poi tanto assurdo e riprovevole associare alle aule dei tribunali un sentimento come minimo di diffidenza. Si tratta di un'Italia, scrive Galli della Loggia, per nulla stupida, che è giusto presumere abbia capito benissimo la misura nel fallimento del governo Berlusconi, ma spesso è pure quella che sta pagando il prezzo più alto alle dure difficoltà di cui ci troviamo. E qui sarebbe l'errore per Galli della Loggia: tutti quelli, compreso Le Monde, il Financial Times, l'Economist, il presidente Schulz, perché la sinistra a queste persone non dice che a questo punto ogni loro bordata contro Berlusconi, lungi dal danneggiarlo ulteriormente, rischia invece di servire solo a farlo apparire come il coraggioso paladino in guerra contro l'arroganza straniera. Insomma, questi sono i favori elettorali che si può fare a Berlusconi: attaccarlo. E lo stesso Filippo Facci, nel suo editoriale su Libero dal titolo «Manca solo Occhetto», fa una premessa: io penso che Berlusconi abbia fatto un errore capitale a ricandidarsi, ma proprio grosso, dannoso per sé, per il paese e per l'evoluzione di un centrodestra normale. Ma il coro oggettivamente impressionante che il tutti contro uno può suscitare simpatie per il bersaglio è evidente. Vedere banche, burocrati, organismi, partiti, giornali stranieri impicciarsi così sfacciatamente nelle nostre elezioni può far incazzare parecchio, ma soprattutto sta facendo clamorosamente dimenticare dopo 20 anni che il tutti contro Berlusconi equivale a fargli la più grandiosa delle campagne elettorali. Questo l'appunto di Filippo Facci. E infatti Berlusconi cerca proprio questo. Questo attacco frontale per essere in qualche modo indicato come il nemico. In tutto questo, cari ascoltatori, c'è il dramma di Alfano. Ma Alfano oggi lo sintetizza, come spesso fa, con una sagacia e con un'arguzia alla perfezione Iena, Riccardo Barenghi, sulla Stampa, pagina 3. Tormenti. C'è una domanda che tormenta Algerino Alfano: perché esisto? Ecco, effettivamente, cosa conta adesso Algerino Alfano all'interno del Popolo della Libertà, lui che ne è il segretario? Beh, intanto conta a giudicare dall'unità. Infatti a pagina 3 c'è questo racconto di Chiara Geloni. Alfano, in gran segreto, o meglio, una di quelle classiche visite che si scrive dovevano rimanere segrete e vengono spiattellate sui giornali, è andato a trovare lunedì scorso il cardinal Ruini, l'ex presidente della CEI. Alfano da Ruini, ma resta il no della CEI all'ex premier. Difficile, scrive Chiara Geloni, che sapremo mai cosa si siano detti lunedì pomeriggio nell'abitazione dell'ex presidente della CEI Alfano e il cardinal Ruini. Ma anche questa visita riservata, di cui nessuno doveva venire a conoscenza, a suo modo un segnale dei tempi. Non era infatti il cavaliere a varcare la soglia di Monsignore, bensì il delfino sconfitto e declinante, il segretario Alfano. Che Ruini abbia offerto Alfano la sua vicinanza spirituale o gli abbia suggerito qualche estremo argomento per provare a fermare il ritorno del cavaliere, o che infine Angelino sia andato per chiedere consiglio su qualche difficile via d'uscita per sé e per chi nel PDL non intendesse rimanere sotto le macerie del muoia Sansone con tutti i filistei, paradossalmente poco cambia. Per la Chiesa italiana il Silvio Berlusconi di oggi non è più un interlocutore proponibile. Questo secondo l'Unità. Mentre molti pare vogliono uscire dal PDL. Giorgia Meloni ieri ai nostri microfoni si è detta dubbiosa, deciderà domenica. Frattini ieri era da Lilli Gruber e insomma parlava più da ex che da fedele del PDL. Mario Mauro oggi fa un'intervista a capogruppo del PDL europarlamentare. Pagina 8 del Corriere dice: se non scegliamo l'Europa io non ci sto. Secondo Libero, La Russa e Gasparri, questo è il titolo, lasciano il PDL. Avrebbero già deciso, il partito spaccato, e La Russa e Gasparri, due ex AN, lasciano il PDL. Staremo a vedere intanto il traffico. Beh, straordinario, l'avete sentita, Trenord fa sapere che potrebbero esserci anche oggi dei disagi. Sono 3 giorni che il nuovo sistema, che si chiama tra l'altro Goal, come il Goal System, comprato penso dalla Spagna, e dovrebbe far funzionare tutto alla perfezione. Pare che, lo so, scusate se sorrido, cari pendolari, siete disperati voi se vi sopprimono il treno, lo so. Pare che dia, non so, assegni impazzendo 4 macchinisti su un unico treno, lasciando scoperti degli altri treni. Questo è le macchine non sono mica perfette, quindi va rodato questo sistema, e pare sia il terzo giorno in cui ci potranno essere dei disagi, usiamo un eufemismo, disagi. Allora, intanto che succede per quel che riguarda la crescita? La crescita ce la siamo dimenticata. Il presidente di Confindustria Squinzi dice che la priorità assoluta è la crescita, ma secondo le previsioni del centro studi di Confindustria solo nel 2014 si vedrà questa ripresa, dunque anche il prossimo anno sarà di magra. Pagina 2 del Sole 24 Ore, Rossella Bocciarelli: la recessione continuerà per tutta la prima metà del 2013, poi cederà il passo a una ripresa gracile da prefisso telefonico, zero e qualcosa, e questa è la diagnosi del centro studi Confindustria, che ha toccato al rialzo le stime per l'anno in corso, dunque meno 2,1% dovrebbe essere l'entità della flessione del PIL, e ha invece ribassato a meno 1,1% quelle dell'anno prossimo, per via di segnali congiunturali che parlano di un quarto trimestre di quest'anno decisamente peggiore del previsto. Il recupero economico slitta dunque al 2014, che farà registrare un incremento del PIL pari allo 0,6. Dunque, per vedere un incremento bisogna aspettare il 2014. In questo clima impazzito della politica, ieri ha tuonato anche Kim Jong-il, Beppe Grillo. Lo so, mi volete male, io lo chiamo così, ma per ironizzare. Tanto Kim Jong-il ieri si è arrabbiato, infatti oggi in Corea del Nord hanno fatto partire un razzo. quindi non è che tutto è scollegato nel mondo. Battute a parte, Beppe Grillo ieri ha fatto una sorta di scomunica ai dissidenti, così titola per esempio Repubblica pagina 10, o Il Secolo XIX pagina 5, Grillo furioso con i ribelli, andate fuori dalle palle, e qualcuno nella base dice: ma parli come il Duce, parli come Mussolini. Effettivamente però non ha tutti i torti quando Beppe Grillo dice: nessuno obbliga nessuno a stare nel Movimento 5 Stelle. Certo, però il suo senso della democrazia è questo: se non vi va bene e se dite cose false, andate fuori dalle palle e non rompetemi sul tema della democrazia all'interno del movimento. Invece ieri è stato terremotata una parte dei vertici del Ministero dell'Agricoltura. Questa è la notizia di cronaca che davvero più mi ha colpito. La Repubblica dedica 2 pagine: tangenti sugli appalti, blitz al Ministero, l'operazione Centurione, che vedeva al centro, secondo l'accusa, il Centurione, appunto, Giuseppe Ambrosio, 58 anni, direttore generale del Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura, capo di gabinetto degli ex ministri Zaia e Galan, oggi braccio destro del sottosegretario Franco Braga, stipendio lordo da oltre 200.000 euro, già rinviato a giudizio 2 volte per truffa, ma rimasto al suo posto, e lo spaccato che fa Carlo Bonini leggendole e scrivendo le intercettazioni è davvero impressionante. A pagina 17... soldi alla moglie, assunzione per le amanti, così funzionava la rete del Centurione. Con quel Giuseppe Ambrosio, scrive Bonini, 58enne di San Giuseppe Vesuviano, non bisognava far altro che fissare il prezzo, fosse una cassetta di mozzarella di bufala, una lampada da salotto, una stecca in contanti, gli occhi chiusi su un paio d'abusi edilizi. Del resto, il tipo che chiamavano Centurione o comandante non era di primo pelo, portato al ministero da Pecoraro Scanio, cresciuto con Alemanno, era uno di quei cetacei della pubblica amministrazione cresciuto nella fu marina mercantile, sopravvisse a ogni procella, 2 Repubblica, il governo dei tecnici, teneva una famiglia e dei famigli voraci come locuste, una moglie, Stefania Ricciardi, dirigente nello stesso ministero, una nipote, Monica Ricciardi, anche lei al ministero, una figlia, Benedetta, il suo fidanzato, Ludovico, da piazzare dove capitava, un ingordo spicciafaccende, Michele Mariani, assistente amministrativo, e 2 amanti trentottenni, mica una, 2, Amelia Puccino da Grazzanise e la polacca Isabella Malgorzata Krupa, la prima gratificata con consulenze del ministero, la seconda con un'assunzione in una delle società vincitrici degli appalti che il Centurione pilotava. E nelle intercettazioni si lamentava anche perché diceva: la mozzarella che mi hai mandato faceva schifo. Questo lo spaccato del ministero, il ministero della corruzione, così titola il Fatto Quotidiano anche a pagina 9, ma l'articolo che ho letto prima era di Carlo Bonini su Repubblica a pagina 17. Trema il mondo del calcio e dello spettacolo per le memorie della pornostar Lea Di Leo, che ha minacciato in un libro di scrivere tutti i nomi dei suoi frequentatori. Le memorie della pornostar diventano arma di ricatto. In aula, a Marsala, perché c'è una causa per pubblicare questo libro, sfilano calciatori e attori. Ragazzi, ci sono delle foto... Toni, centravanti della Fiorentina, Borriello del Genoa, Massimo Ambrosini del Milan, il giornalista Amedeo Goria della Rai, l'attore Branciamore, alcuni hanno anche smentito, Grignani, cantautore, Fabri Fibra, cantante, addirittura il nome di un politico, racconta Alessandra Ziniti, è stato fatto da questa pornostar, vale a dire l'ex vice ministro dell'economia Mario Baldassarri, come frequentatore di suo. Ovviamente smentiranno, ma dovranno pare sfilare in tribunale per dire i loro rapporti con questa pornostar. Trovate su Repubblica il giornale radio.